Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City, la città intelligente. Abbiamo parlato qualche giorno fa di come si possa recuperare il vetro dei tubi catodici dei vecchi televisori per farci delle piastrelle, ma insomma questo mondo del riciclo del vetro ha ancora altre cose da raccontarci, anche se è certamente insomma la forma di recupero di materiale probabilmente più vecchia. Per ora utilizziamo questo aggettivo, forse poi ne utilizzeremo un altro. Ne parliamo con Massimiliano Avella, che è responsabile della comunicazione di Coreve, il consorzio recupero vetro, che recupera appunto circa il 70% del vetro riciclato in Italia, se parliamo di bottiglie e cose del genere. Benvenuto Avella. Grazie, buonasera. Allora, dicevamo, uno di quei materiali che è riciclato da sempre. Assolutamente sì, noi siamo riusciti a raggiungere il 70% oggi, un importante ed eclatante risultato, ma il vetro si ricicla in realtà sin dall'epoca dei Romani, è una pratica quindi tanto antica quanto il materiale. Possiamo dire che sulle nostre tavole c'è, nelle nostre bottiglie, anche del rottame appartenuto realmente ai Romani. Oggi come oggi si risparmia energia, materie prime ed emissioni, ma lo stesso concetto era noto all'epoca. È stata trovata addirittura una nave che trasportava cocci di vetro, vero? Assolutamente sì, è stata ritrovata all'altezza di Grado una nave romana che andava in un forno situato ad Aquileia, ed è la prova provata che si è sempre riciclato il vetro, perché la stiva era piena di cocci di vetro. Bisogna tenere anche conto che all'epoca, insomma, per poter produrre vetro da materie prime vergini bisogna avere una colonia nell'attuale Siria. In insomma, Siria, per tirar fuori diversamente la soda, che cosa? La soda, la soda, bene. Allora, oggi il vetro si ricicla, dicevamo, risultato abbastanza eclatante, però non ci siamo molto allontanati dalle modalità con cui lo facevano i Romani, mi pare di capire. Insomma, abbiamo una raccolta un po' inquinata, dobbiamo invece fare un passo avanti. Intanto partiamo dagli inquinanti, quali sono? Tipicamente? Beh, tipicamente gli inquinanti più pericolosi nel caso del vetro sono alcuni inquinanti che sono quelli più simili dal punto di vista dell'aspetto al vetro. C'è anche da dire che alcuni inquinanti, o meglio materiali diversi, spesso invece vengono addirittura raccolti insieme, per cui è difficile per l'utenza separare nell'atto del conferimento quei materiali che sono un po' più delicati e assomigliano, cioè, molto capire al vetro. L'importanza di stare attenti al dettaglio. Noi addirittura siamo abituati a raccogliere il vetro coi metalli, e già questo è un primo problema, mi pare di capire. Tutti i sistemi di raccolta come vetro e metalli, multimateriali ed altri sistemi di raccolta che ereditiamo un po' dal passato non sono proprio il sistema ottimale per la raccolta del vetro. Ma per essere per dare dei numeri, il 96% di ciò che si raccoglie di solito in una campana dedicata al solo vetro torna ad essere una nuova bottiglia. Più difficile farlo con sistemi di raccolta andando all'altro estremo, come la raccolta vetro plastica lattine, per la quale tipicamente possiamo immaginare che il 65% di quello che si raccoglie torni ad essere una nuova bottiglia e si abbia comunque un 35% di scarti oltre ai Di scarti, perché in qualche modo, anche se poi si riescono a separare i metalli dal vetro, un po' si inquinano a vicenda. E questo è il caso però più semplice, perché ci sono invece differenze più sottili nei quali si può anche cadere, no? Assolutamente. Facci sì. Qualche esempio. Tipico è la ceramica, è un materiale che si tende, diciamo, buttare insieme al vetro e che però non ha una temperatura di fusione come quella del vetro e quindi comporta la rottura dei contenitori nelle fasi di formatura nelle fabbriche. Come ecco, la ceramica è quella per esempio dei piatti da cucina, eccetera. Un po' eccetera. Più semplice da riconoscere per esempio rispetto ad altri materiali, ecco, come la vetroceramica. Ecco, la fregatura veramente. O altri vetri. Cioè il famoso vetro Pyrex. Per noi esempio, crediamo sì. Che sia vetro, ma in realtà è un altro materiale, non è proprio vetro. È un materiale particolarmente resistente al fuoco e per cui produce gli stessi danni che fa la ceramica nelle fasi produttive. A volte può creare danni anche ulteriori alle linee produttive, proprio perché ha una temperatura di fusione diversa, è difficile da riconoscere nelle fasi di trattamento e quindi può sfuggire e arrivare al forno fusorio e fare i danni, appunto. Poi ci sono le lampadine, ricordiamolo, che non vanno buttate insieme al vetro. Che non vanno buttate insieme al vetro. Poi ci sono altri materiali minerali come gli specchi, che contengono una patina che contiene metalli pesanti come l'argento o il piombo. Un altro problema è costituito dai cristalli, cioè dei cosiddetti vetri al piombo, che ovviamente sono un vetro con un contenuto di piombo che non è compatibile con le attività di riciclo. Ecco, comunque sia, resta il fatto che fare una raccolta differenziata perfetta è impossibile. Ci sono sempre degli scarti alla fine di un processo di differenziazione. Voi vi siete domandati che cosa fare con questi scarti e ne è venuto fuori un progetto interessante. Sì, noi abbiamo un fondo che destina delle risorse economiche alla ricerca di sistemi più efficienti per il riciclo del vetro, e tra questi c'è sicuramente la possibilità di recuperare anche gli scarti vetrosi provenienti dalle fasi di trasformazione di un rifiuto in una materia prima seconda per la produzione di autobloccanti, altri materiali per l'edilizia, e in particolare anche per, si sta verificando la possibilità di produrre una pasta di vetro molto innovativa che contiene dal 70-90% vetro di scarto, quindi un materiale che nasce dallo scarto del riciclo. Sì, è chiaro che questi sono tutti impieghi secondari, sia perché non ci sono comparti come le vetrerie che possano assorbire tutto questo materiale, ma anche perché dal punto di vista sia ambientale che economico il ciclo chiuso dell'imballaggio, che torna ad essere un nuovo imballaggio, è sicuramente preferibile. Che cosa ci si fa con questa pasta di vetro? Si possono fare, diciamo, da materiali di natura artistici a materiali da rivestimento, quelli che siete abituati a pensare, piastrelle, top da cucina, materiali di questo tipo. Grazie Massimiliano Avella. Grazie a voi. È tutto, a domani.